nascosto nella mente, poi un tempo andato via, ritrovarci ancora noi in una fotografia, momenti di una volta, riportare ancora un passato che non c'era più. Una foto immagini di noi per capire come sia, un tuffo nei ricordi e poi verrà la nostalgia a darci quei momenti ed era ancora via e tutto cominciava con un sì. Seduti a riparlare il giorno col rosso della sera, a spasso con il tempo se ne va. Vederla ancora una volta nella foto, un ricordo di noi. Nel passato ancora mi porta su una via, ed eravamo allora nell'età dell'allegria, rivivere i momenti da tempo ormai andati e come per magia poi ritornati. Una casa, un davanzale, i fiori e lei dalla finestra, gli incontri fatti per gli amori nati sulla via maestra, sorrisi e poi tormenti, momenti dell'età, volata un tempo e non ritornerà. Le corse riva al mare, poi il rosso della sera, adesso un altro giorno se ne va. Ogni cosa col tempo se ne andrà, per sempre in mente resterà. Ed il tempo mai cancellerà.